Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Raccontiamo oggi di un altro caso finito positivamente, un caso di bollette pazze, di distacco addirittura del gas, non è il massimo nel periodo invernale, successo a una signora della provincia di Venezia che si è rivolta all'Adico e la situazione nel giro di abbastanza poco tempo è tornata alla normalità. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo dall'inizio di questa storia, una signora che ha avuto problemi con il suo fornitore di gas. Sì, una vicenda incredibile che si è prolungata per diversi anni, che è arrivata al punto che improvvisamente la signora arriva là lamentandosi che dentro casa non ha più il gas, quindi non può più riscaldarsi, preparare da mangiare, non può più avere un'abitazione agibile e con armi, bagagli e intanto di valigia al seguito ha deciso di passare la notte all'Adico proprio in segno di protesta. Noi chiaramente come associazione ci siamo subito attivati e come hai annunciato tu la vicenda fortunatamente si è conclusa abbastanza positivamente, però ecco, si è trattata di una vicenda che abbiamo voluto portare alla luce proprio perché si è trattata di una situazione che così come è stata gestita sin dall'inizio ha avuto dell'incredibile, che come unico protagonista ha avuto in questo caso l'ENI. L'ENI, suo fornitrice di gas, che circa 3 anni fa, nel 2011, ha mandato a casa della signora 3 bollette che però non erano sue. Sì, la signora improvvisamente si è trovata ad avere 3 bollette con numeri di matricola completamente diversi e consumi completamente diversi da quelli che normalmente sosteneva nello stesso periodo e di cui prontamente gli uffici dell'Adico hanno cominciato a contestare richiedendo all'ENI in questo caso la possibilità di verificare quanto inviato alla signora, perché la signora è sempre stata una buona cliente, ha sempre pagato per decenni le bollette regolarmente e aveva tutte le intenzioni di volerlo continuare a fare, ma non certamente bollette di qualcun altro o bollette di cui non si capivano la provenienza. Tanto che poi con l'intervento dell'Adico questa vicenda è andata un po' in archivio, malgrado c'era l'impegno di trovare una soluzione. E nel giro di qualche anno dopo, 3 anni dopo, quando improvvisamente la signora non arrivavano più le bollette del 2013 e è andata a recarsi presso l'ufficio per chiedere informazioni delle bollette del 2013, si è trovata improvvisamente con il rubinetto del gas chiusa, in quanto loro risultavano che nel 2010 non erano state pagate ancora queste 3 bollette di cui c'era una posizione aperta e ancora si cercava di trovare una soluzione. Mentre le sue bollette col suo numero di contatore non le sono arrivate? Non le sono arrivate e tuttora non le ha arrivate e tuttora le stiamo ancora sollecitando. Tant'è che come ufficio legale dell'associazione abbiamo anche fatto una denuncia all'authority, perché non è possibile ed è incredibile questo tipo di comportamento da parte di un gestore, ma è altrettanto vero che non è neanche possibile che a fronte di quelle che sono state 6 diffide legali che l'Adico ha fatto negli ultimi anni per sollecitare l'ENI a voler risolvere questa vicenda che ha lasciato aperto con tanta buona volontà a non voler proprio trovare una soluzione, perché poi la signora che è una vedova anche rimasta da poco si è trovata anche a dover andare negli uffici dell'ENI a cercare di manifestare come mai, che cosa era accaduto, perché comunque era l'intenzione di voler pagare, si trovava sempre nella condizione di sentirsi ripetere che insomma non sapevano cosa fare, tutti erano concordi che c'era qualcosa che non andava da parte loro. A conclusione di questa vicenda pensiamo che 2 giorni prima del distacco dalla rete aveva ricevuto anche una proposta dall'ENI per rendere più vantaggiosa un suo contratto di fornitura in virtù della fedeltà che la signora ha sempre manifestato nei confronti dell'ente. E beffa sulla beffa appunto ci siamo trovati con le valigie tutta disperata e sì, certamente con tutte le ragioni dalla sua parte e il nostro intervento immediato tramite anche dei canali preferenziali, certamente con il contributo anche di tutti i media che hanno voluto sollevare e porre attenzione a questa vicenda rocambolesca, siamo riusciti a venirne a capo. Certo è che comunque queste trabolette devono ancora essere regolarizzate e speriamo che insomma, la regolarizzazione avvenga anche questa volta in maniera liscia. Ecco, ma queste tre bollette che non sono sue saranno di qualcun altro oppure l'ENI ha proprio sbagliato i conteggi e questo contatore magari nemmeno esiste? Dal momento, certamente l'ENI non ti dice, non ti dà una risposta riguardo di questo. Certo è che di fronte alle diffide avevano risposto che sì, è vero, c'è un errore, il numero di matricola non è il suo numero di matricola, però è anche vero che non ti dice poi che i consumi sono tuoi o non sono tuoi, perché di fronte a un errore, di fronte a un numero di matricola che non è corrispondente al tuo contatore, l'unica possibilità che si può attribuire è che queste bollette non sono riconducibili a te, ma sono state riconducibili a qualcun altro. Poi è anche vero che quando una persona, un ente, un cliente, si trova nella condizione di non capire cosa paga per una serie di motivi, è anche giusto che insomma, una società possa anche dare delle risposte e dare incontro a quelli che sono dei doverosi chiarimenti in virtù di una situazione che ha creato solamente lei, perché ribadiamo come la signora è sempre stata regolare nei pagamenti in tutti questi anni e sempre, non ha mai ritardato un giorno un pagamento, non è neanche pensabile che si possa arrivare a queste situazioni di disagio nei confronti di un qualche malfunzionamento interno che in questo caso qualche ufficio deve aver avuto, anche perché come ribadito in tante diffide legali che l'Adico ha mandato loro hanno sempre risposto che effettivamente c'era qualcosa che non andava e c'erano degli errori che sicuramente dovevano verificare. Certo anche è che poter arrivare ad interrompere un servizio pubblico che è importante come quella di una fornitura di gas che permette di riscaldare e avere un'abitazione agibile nei periodi invernali è stata una mossa molto dura che anche i nostri uffici stanno ancora valutando se procede con una richiesta di risarcimento adeguata, perché non si può assolutamente arrivare a questo di fronte alla buona volontà che un cliente ha sempre manifestato, soprattutto nei rapporti con un ente importante come quella che è un'occasione lei. Ecco, la signora fortunatamente ha riavuto il gas e quindi può tornare a scaldare la casa per l'ultimo periodo appunto della stagione fredda, può scaldarsi l'acqua. Contiamo che la prossima bolletta che le arrivi sia effettivamente la sua, voi starete allerta. Certo, e contiamo anche che le arrivano quelle del 2013, perché tutto è iniziato quando la signora comunque si è rivolta a gestore, perché non arrivavano bollette da circa un anno. Poi le persone si preoccupano perché comunque si aspettano anche un salasso, perché pensiamo a non ricevere bollette di gas per un anno, certamente bisogna aspettarsi un certo bollette leggere. Certamente in questi casi si possono rateizzare gli importi, bloccare in attesa di verifica dei consumi, dei conguagli eccetera, ma normalmente ricordiamo che anche qui è nata per effetto di un disservizio di gestore, è andata a scoprire una vicenda di cui lei da tre anni che sta cercando di risolvere. Comunque in soldoni verso la signora, come ha detto, è caldo, la vicenda si è conclusa positivamente almeno per quanto concerne la possibilità di poter rientrare a casa sua e avere un'abitazione agibile. Adesso speriamo che l'ultimo tassello insomma, si possa concludere positivamente e regolarizzare queste ultime bollette. Tra un paio di giorni un altro argomento insieme all'Adico di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.